l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Chi vi parla è Lucia Capparrucci e siamo su Radio Libriamoci Web. Questa settimana la nostra routine radiofonica ha subito diverse modifiche e sarà la stessa cosa per l'eco di questa settimana, in cui non ci saranno notizie provenienti un po' da tutto il mondo, ma fondamentalmente informazioni riguardanti il terremoto e soprattutto il come poter aiutare le persone terremotate. A questa parte così prettamente direi strumentale dell'eco, dato che fondamentalmente cercherò di fornirvi degli strumenti sia per poter aiutare in modo efficace che per potervi informare su come dare aiuto, in modo che ognuno possa possibilmente non solo trovare le modalità a lui più idonee, ma anche risultare efficace nell'aiuto, che è altrettanto importante. Dicevo, a questa parte più tecnica vorrei anteporre una riflessione, che non è mia ma di Wuming 1, riflessione che, dopo averla letta, mi ha costretta a 5 minuti buoni di silenzio e ragionamento. Spero risulti altrettanto interessante anche a voi, tanto quanto lo è stata per la sottoscritta. Da WumingFoundation.com. Il terremoto in Emilia e gli orologi, di Wuming 1, scritto il 31/5/2012 e apparso su La Repubblica il 2 giugno 2012. Da quando è iniziato il terremoto in Emilia, i giornali e i siti di informazione, soprattutto quelli locali, pubblicano foto di orologi, le torri degli orologi di Finale Emilia, San Felice sul Panaro e Ferrara, l'orologio della chiesa di Sant'Agostino, quello della chiesa di San Rocco Cento, quadranti danneggiati, spaccati, scomparsi. Qualcuno è rimasto intatto ma fermo, a segnare l'ora della scossa che lo ha bloccato. Chi come me vive a Bologna non può non pensare all'orologio della stazione, fisso sulle 10:25 della strage del 2 agosto. Perché un orologio fermo diventa notizia? Perché ne guardiamo la foto? Forse perché in essa cogliamo qualcosa, un lampo di verità su noi stessi. L'evento che lacera la quotidianità si esprime per metafore. Come gli insorti del comune di Parigi, secondo Walter Benjamin, il terremoto ha sparato sugli orologi. Non solo. Ha causato il tracollo della rete telefonica mobile. Quale messaggio dovremmo cogliere? Se chiedi a un bambino di disegnare una casa, disegnerà quasi sempre una villetta monofamiliare, anche se vive in un trilocale al 10° piano o in un brefotrofio. In modo analogo, il terremoto ha colpito gli orologi di torri e campanili, benché da tempo non siano più quelli a scandire la nostra giornata. L'odierna forma orologio è onnipresente, incorporata in ogni nostro dispositivo, computer, tablet, telefonino, curbofono, cruscotto di auto intelligente. Oggi, almeno in Occidente, sappiamo tutti e sempre che ora è. Non era mai accaduto che la maggioranza dei membri di una società si percepisse e rappresentasse in ogni momento dentro un tempo scandito e strutturato. Franco Bifo Berardi dice che il telefonino è una catena di montaggio mobile dalla quale non puoi staccarti. Al tempo stesso, sei cronometrista della tua prestazione. È forte la tentazione di maledire il sisma, descriverlo come demone, mostro, entità ostile. Siamo in guerra con la terra, gridato a tutta pagina un quotidiano emiliano. Ma non è la terra il nemico. È forse colpa della terra se viviamo, costruiamo, abitiamo, lavoriamo, obbediamo in un certo modo? A uccidere non è il sisma, ma la realtà su cui il sisma getta luce. A uccidere è l'illusione che si possa tornare subito al tran tran di prima, ai ritmi forsennati di prima. La spinta a ripristinare la normalità, la parola più ripetuta nelle interviste, è costata altre vite. Le aziende non hanno atteso le verifiche e gli operai sono tornati a lavorare in capannoni a rischio, con le conseguenze che sappiamo. Dunque, l'unica normalità già ripristinata è quella dei morti sul lavoro, per mancanza di sicurezza, delle famiglie devastate, dei figli rimasti orfani perché la macchina non poteva fermarsi. Spesso, nelle città, i movimenti sociali rivendicano spazi, ma avere spazi non cambia nulla se non si contestano i tempi. Ti riappropri degli spazi quando i tempi saltano e riprendi fiato, grazie allo zoccolo scagliato tra gli ingranaggi. È tragico che a gettare lo zoccolo sia stato un terremoto, ma la tragedia non deve ottenebrarci, renderci ciechi di fronte agli esempi. Un amico mi racconta che dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole, i parchi del suo paese sono riempiti di bande di bambini che giocano ad libitum. Non accadeva da anni, nemmeno nei giorni festivi. Oggi i bambini, anche in provincia, vivono imbozzolati in tempi infernali, con giornate piene di scadenze e impegni, incastrati meticolosamente, scuola, piscina, lezioni di questo e quello, catechismo, in pochi, interstiziali momenti di far niente, li passano davanti a uno schermo. L'evento ha interrotto la sequela e fatto riscoprire uno spazio, lo spazio dei giochi per eccellenza. In diversi stati, gli edifici delle università sono aperti anche di notte, a disposizione degli studenti. In Italia no, ma ci ha pensato l'evento. La facoltà di architettura di Ferrara è rimasta aperta di notte per accogliere chi preferiva dormire fuori casa. Fino a 30 anni fa, quell'edificio in via della Ghiara ospitava un manicomio, grande macchina disciplinare, luogo di costrizione fisica e totale eterodirezione dei tempi. Mentre scrivo, nelle province emiliane colpite dal sisma, Modena, Ferrara e Bologna, le scuole sono ancora chiuse e c'è chi propone di dichiarare terminato l'anno scolastico. Le scosse potrebbero susseguirsi per mesi. Si capisce che la vita sarà diversa. Molti operai si rifiutano di rientrare nei capannoni. La vita vale più dell'economia, ha dichiarato un dirigente della FIOM. È la frase più eretica che oggi si possa dire. Ma la routine già incalza e preme, e presto tornerà a imporsi. Il tran-tran è astuto. Si ammanta di straordinario, si traveste da finta discontinuità. Si pensi al minuto di silenzio, rituale, rapido e innocuo. Conferma che l'ordine regna e può permettersi di sprecare un minuto, al termine del quale approfitterà del momento, pigiando sull'acceleratore di strozzanti controriforme e imponendo la sua shock economy. È vero, vogliamo ripartire, il verbo più usato nelle interviste. Tuttavia, sarà il caso di cambiare meta e percorso, saltando giù da questo treno iperveloce. Chiediamoci, questa velocità dove ci porta? Lavorare con lentezza. Chi è veloce si fa male, cantava Enzo Del Re. Chiediamoci, soprattutto, questa velocità a chi conviene? Un ladro più veloce ruba meglio e un fesso più veloce non diventa meno fesso, diceva Amedeo Ordiga. Il tran-tran si riaffermerà. Intanto, approfittiamo dell'evento per respirare, pensare, prepararci a lottare. L'eco del silenzio. Silenzio. Passiamo ora alla parte più prettamente utile, come vi avevo anticipato prima. Allora, per prima cosa consiglio di seguire i siti istituzionali dei comuni terremotati, così da essere aggiornati su quello di cui hanno effettivamente bisogno. Un esempio fra tutti il comune di Mirandola, che nei giorni passati aveva richiesto l'invio di pannolini, per anziani, bambini, alcuni farmaci, lenzuola pulite e così via, che invece ad oggi ricorda che non c'è bisogno di aiuti materiali, ma di contributi economici e inserisce poi le coordinate per poter effettuare il bonifico al comune stesso e ringrazia tutti per la generosità. Un altro sito di comune estremamente attivo, che viene aggiornato anche più volte durante la giornata, che è quello di San Felice, che ha anche un suo sottosito, che è terremotosanfelice.org, in cui sono indicate varie modalità per poterli aiutare, dalla donazione in denaro, e anche qui c'è la possibilità di trovare l'IBAN a cui donare con causale emergenza terremoto, a una descrizione dei generi di prima necessità di cui avranno bisogno a partire dal 6 giugno, quando saranno riusciti a svuotare e gestire il materiale, che riempie attualmente i loro magazzini, a una serie di informazioni su quale tipo di volontariato è necessario in quelle zone e come potersi, tra virgolette, proporre nel ruolo di volontari. Volontariato che non si occuperà solo ed esclusivamente di macerie e servire pasti, ma ad esempio le figure dei volontari sono anche richieste per allietare i bambini e organizzare dei giochi nei parchi, quindi attività di questo tipo. L'ultimo fra i siti di comuni che ho visto è quello della città di Vignola, che a sua volta propone il codice IBAN del comune per fare eventualmente delle donazioni, indicando sempre come causa il terremoto maggio 2012, e aggiorna sulle verifiche fatte ad esempio sull'ospedale e la casa protetta per anziani che sono risultate agibile e così via. comune di Vignola chiede oltretutto di poter portare, qualora sia possibile, a un punto raccolta materiale presso la sede della pubblica assistenza di Vignola, via Gramsci 1, nell'ex mercato ortofrutticolo, vestiti e scarpe esclusivamente nuovi, generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l'igiene dei bambini e degli adulti. Ad oggi non tutti i comuni richiedono beni materiali, buona parte chiede un aiuto in denaro, però quelli che invece chiedono l'invio di beni fondamentalmente richiedono i prodotti che ora vado ad elencarvi. Acqua confezionata ed integra, spesso e volentieri in bottigliette da mezzo litro, genere alimentare, possibilmente a lunga conservazione con confezione integra, pasta, scatolame, sughi pronti, frutta, conserva di pomodoro, tonno, succhi di frutta, biscotti, prodotti per l'igiene di anziani e bambini, pannolini, pannoloni, salviette umidificate, sapone liquido, saponette, dentifricio, assorbenti e aggiungo, visti i tweet di oggi, anche crema solare e repellente per gli insetti, poi coperte, lenzuola, asciugamani, accappatoi, tutte cose nuove o rigorosamente pulite e confezionate. E comunque sia, questa lista era del comune di Vignola, ma ce ne sono diverse. Sono liste che vengono continuamente aggiornate, sia nel contenuto che nei luoghi di raccolta. In questi giorni poi sono fiorite veramente tantissime iniziative nel web. Da quella degli angeli col fango sulle magliette, che erano gli stessi ragazzi che hanno aiutato per l'alluvione in Liguria, che hanno fatto a loro volta una raccolta che durerà dal 2 all'8 giugno di beni da poi portare su in due parrocchie distinte, tramite un contatto che c'è fra dei sacerdoti che si conoscono, in cui a questi beni si garantisce che verranno consegnati personalmente da Don Valentino della parrocchia di Santa Annunziata di Sturla in via della Vergine 3 a Finale Emilia. Un'altra iniziativa, ad esempio, è quella dell'APE, Associazione Progetto Endometriosi, un'associazione con sede nazionale a Reggio Emilia che ha organizzato a sua volta una raccolta fondi sempre per il terremoto dell'Emilia. Un'altra ancora è quella di cuoredimaiablog.blogspot.it, che è un sito, tra virgolette, che sta dietro a un'associazione, anzi un progetto che si chiama appunto Cuore di Maglia, che normalmente si occupa di sferruzzare, preparare i ferri, non so come si dice nello specifico, copertine, golfini e cose per i bambini che stanno male o sono nati prematuri, e che in questo caso sta invece raccogliendo e chiede di inviare loro golfini taglia 0-3-6 mesi in cotone, pantaloncini 0-3-6 mesi in cotone, pupazzini da mettere nelle culle, lenzuolini da lettino e da culla, bavaglini e accappatoi da neonato. Tutto ciò è da spedire a Cuore di Maglia, via 24 maggio, 15.121 Alessandria. E sulla scatola bisogna indicare Operazione Mila. Comunque sia, sul sito di Cuore di Maglia trovate tutte le informazioni. Si inizia a parlare poi di un concerto che vedrà fra gli altri una serie di artisti emiliani, quindi dai Nomadi a Guccini, Ligabue, Rio, Modena City Rambles e via dicendo, forse il 25 di giugno a Bologna. E per ultimo vi presento un sito che forse è quello più completo in cui potete con un colpo d'occhio vedere un po' le differenti situazioni, che è terremoto.volontariamo.com. Ripeto, terremoto.volontariamo.com. Ci sono diverse sezioni. In quella notizie vengono appunto inserite le news, diciamo, più contingenti. Ad esempio, c'è una possibilità di incontro fra chi offre capannoni e spazi per prodotti e strumenti e chi ne necessita. C'è la possibilità per infermieri, medici, operatori sanitari e altro personale con competenze sanitarie di proporsi come volontari. C'è la possibilità per ingegneri, geometri e architetti sempre di mandare la loro disponibilità. E c'è la possibilità comunque per i cittadini di organizzarsi in modo trasversale. Sempre qui, sempre su terremoto.volontariamo.com, c'è una parte relativa alle donazioni. E anche loro hanno un ulteriore codice IBAN a cui è possibile donare, dando come causale emergenza terremoto rete del terzo settore provincia di Modena. E poi c'è la parte su cui mi sono soffermata maggiormente, mentre cercavo appunto queste notizie, che è la sezione richieste e beni, in cui vengono mano a mano elencate le cose di cui c'è bisogno. Ad esempio, oggi è comparso l'annuncio della necessità di una tenda alta per 4-6 persone, utile a contenere un letto e non soltanto materassini e sacchiapeli. E poi ci sono tutta una serie di riferimenti per città, quindi c'è Modena, Carpi, Castelnuovo Rangone Montale, Sassuolo, Savignano, Vignola, Castelfranco, Frignano. E poi ci sono luoghi in cui è possibile consegnare frutta, verdura e carne, tavoli di legno e panche, WC chimici, nonché offrire o comunque sia richiedere alloggi e posti letto. Una richiesta che viene fatta e ripetuta in molti di questi siti è quella di, nel caso in cui si vogliano donare delle cifre, non affidarsi solo ed esclusivamente al numero che è stato messo a disposizione da subito, che è quello anche degli SMS, il 45500, ma di finanziare, se possibile, le singole realtà, i singoli progetti o i singoli comuni. Specifico che non ho assolutamente nulla contro il 45500. Semplicemente mi limito a riportarvi quella che è una cosa che viene ribadita continuamente. Per rimanere aggiornati sul terremoto, comunque sia, avere la possibilità di seguire tutte queste notizie e informazioni di cui adesso vi ho dato un breve, ma nemmeno troppo riassunto, consiglio a tutti l'utilizzo di Twitter. E per tenersi aggiornati e capire se le informazioni e notizie che ci arrivano sono effettivamente certificate, di utilizzare Twitter con hashtag cancelletto terremoto e cancelletto terremoto serve, oltre ovviamente che seguendo i profili istituzionali. In questi giorni devo dire che le persone che hanno fatto circolare maggiormente le notizie sono state sicuramente alcune mamme blogger, da Panza all'aria a Mamma Felice piuttosto che Mamma Che Testa o Mamma Imperfetta, che hanno veramente diffuso numeri e informazioni. Buona parte dei comuni continua a chiedere se possibile di lasciare aperte le reti wireless e il wifi perché le comunicazioni sono ancora decisamente critiche. Dovrei aver più o meno riorganizzato tutte le informazioni. Se vi capita, comprate le ciliegie di Vignola, così aiutate il comune e quella zona acquistando un prodotto che è tipico e che è anche estremamente buono. E per quanto riguarda il parmigiano reggiano, invito a non comprarlo sotto prezzo, ma a rivolgersi ai caseifici che lo stanno offrendo, il parmigiano reggiano caduto e che quindi non potrà essere ulteriormente stagionato e dovrà essere venduto. Invito tutti quanti ad andare sulla pagina del consorzio del parmigiano reggiano, pagina in cui non è possibile acquistare, ma in cui si trovano le informazioni dei caseifici presso i quali è possibile farlo, e do come notizia ufficiosa, perché ancora non ho trovato una conferma effettiva della data, che dal 10 di giugno nelle varie Coop dovrebbe essere comunque sia possibile acquistare il parmigiano reggiano caduto e verrà devoluto poi 1 euro del ricavato appunto per il terremoto. Non era pubblicità, ma informazione anche questa. Quindi anche per questa settimana è tutto. Da una Lucia Caparrucci un po' più caotica e forse blogger del solito, un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Caparrucci.